Era un orchestro sul tetto, la gente che per strada cantava in dialetto stretto, canzoni che non ho mai più dimenticato, le voci della strada lì dove sono nato. Questo ricordo vive ancora, è un flash, inevitabile, parte di me. Come il chino zarro che pesta, vince che va a messa, e Gianni che impenna con la sua vespa. Mo, che fine ha fatto se, era il cazzo di pivello più tranquillo che c'è. Ora, e la realtà è allerta, da Naya in poi, i giorni passano e sembra che abbiano fretta. Max, ma non ti esagere, Claudio e Nico, Luca e poi Lele. Da noi il bar, va a star bene, da noi il bar, il flipper era Ceres. Così va, così è la vita che scorre, finisce il tempo delle mele. Ehi, ma c'è qualcosa che io ricorderò per sempre, le mie radici, il mio quartiere. Tutto ritorna così chiaramente, quei luoghi, posti, quella gente. Con voi, per sempre, senza di voi, per sempre. E intanto scorre via velocemente, mentre la vita dà e poi prende. Con voi, per sempre, senza di voi, per sempre. Riesco ancora a sentire quel grido, donne, donne, è arrivato la routine. E poi i mercatari che fanno casino, donne, donne, cima mille lire. Chi sforna il pane, chi impaglia le sedie. In zona si respira aria di paese ed è ciò per cui mi ispiro e scrivo. Certo, più bel ricordo che ho da quando esisto. Sono gli anni 80, gli anni delle medie. Le risse in piazza, luna pazza, il cielo. Le abbiamo date, bro, le abbiamo prese. A lei partiva così, a caschi e catene. Guarda sta tipa, che culo che c'ha, che c'ha. Sta minchia socio e panaro che tiene. Ti lancio in mano, ce l'è, non ci sta, non ci sta. Che funziona così, giù con le seghe. Mi chiedo spesso come sarei mai messo se non mi fossi detto voglio fare la box. Non avrei scelto sport da combattimento, avrei praticato il calcio, cazzo ne so cosa. Avrei studiato e sarei anche laureato. Non passerei 9 ore al giorno sopra un camion. Non farei mai il butta fuori tra i fake in quei club dove il rap viene preso e massacrato. Ascolterei le fesserie dei nerds in radio, l'apoteosi del falso. Ma c'è qualcosa che io ricorderò per sempre, da dove vengo, il mio passato. Tutto ritorna così chiaramente, quei luoghi, posti, quella gente. Con voi, per sempre, senza di voi, per sempre. E intanto scorre via velocemente, mentre la vita dà e poi prende. Con voi, per sempre, senza di voi, per sempre. I posti in cui crescemmo, le case Fiat, la sala giochi, l'oratorio, il campetto. Venimmo su ed appresso, tra quelle vie dove nessuno ti regala rispetto. Fiero di essere Randaz, da sempre Randaz, e Randaz quello che resto. Perché la strada ti marca, è la fascia che hai e che ti porti per tutta la vita appresso. Tutto ritorna così chiaramente, ora come se fossi qui, come se quei luoghi, posti, quella gente. Le mie radici, bro, sono le mie origini. E intanto scorre via velocemente, va e non si può fermare mai. Tutto ritorna così chiaramente, hey. Tutto ritorna così chiaramente, yeah. Tutto ritorna così chiaramente, chiaramente. Quei luoghi, posti, quella gente. Con voi, per sempre, senza di voi, per sempre. E intanto scorre via velocemente, mentre la vita dà e poi prende. Con voi, per sempre, senza di voi, per sempre.